Benvenuti, episodio pre-Oscar, se non sbaglio, su un film che vincerà sicuramente qualcosa. Con me c'è solo Jacopo, forse ci raggiunge Andrea, come mascotte ha detto lui. Vabbè, allora, non mi sento di giudicarlo, nel senso che il film non ha di sicuro una delle partenze più spedite del mondo, però poi, vabbè, ne parleremo. Ma però, secondo me non ha iniziato. Può darsi, però sì, è un cane lo stesso. Gli Oscar dovrebbero essere la prossima settimana, quindi quando voi l'ascolterete sarà, se l'ascoltate entro domenica, bene, altrimenti saprete già chi vince. Allora, la mia previsione è che vincerà miglior premio, miglior film straniero. Questo qui? Sì. Vero? Okay. Perché è candidato sia a quello sia a miglior film. Miglior film non glielo faranno vincere quasi sicuramente. Però a quel punto vuol dire che il film, insomma, non lo so, Provo a ragionare come questi cani, so. Cioè questi esperti di... Miglior film potrebbe essere, secondo te, una battaglia dopo l'altra che lo vince? Spero di no. Spero lo vinca Sinners, però sì, okay. Potrebbe essere. Io spero in Sinners, però non so se ce la farà. Diciamo che se lo vince Frankenstein posso smettere di avere fede per... No, comunque è candidato a un sacco di cose, credo che abbia almeno 4 premi, anche miglior attore protagonista e anche miglior casting, forse. 4 premi. Miglior casting se lo meriterebbe, però no. Mi sa che sì, anche casting... secondo me. Ah, vabbè, no, dai, sì, di cosa stiamo parlando così? Allora, il film è uscito l'anno scorso, in realtà, perché vabbè, è candidato agli Oscar di quest'anno, e è un film brasiliano, per quello è candidato agli Oscar stranieri. E, quindi la sua lingua originale è in portoghese. E, da dove partiamo? Partiamo forse dal regista? Non lo so. Il regista è un regista brasiliano, Kleber Filho, e ha fatto un film brasiliani, ma anche, credo, film famosi tipo Aquarius, dovrebbe essere lui, no? Quindi non è uno dei, diciamo, dei registi più... Non è proprio un esordio questo per lui. E detto questo, ha cercato di mettere insieme un film un po' particolare in cui parla del Brasile durante gli anni della dittatura, quindi dal 65, anni, non mi ricordo quando è finita, la dittatura in Brasile, mi pare intorno agli anni 80. E... Di cosa parla questo film? Vabbè, intanto ha, di nuovo, se vogliamo citare anche gli attori, ha preso attori più o meno famosi, un attore più o meno famoso che è il protagonista, che è Wagner Moura, e che ha fatto un bel po' di roba, niente probabilmente di, diciamo, di che è finito nel nostro podcast, ma... È già stato candidato a qualche premio, tipo ai Golden Globes, come Pablo Escobar nella serie Narcos. Quindi è abbastanza conosciuto nel cinema americano. E lo stesso per quanto riguarda quella che interpreta Elsa, che si chiama Maria Fernanda Candido, non lo so. E anche lei è abbastanza famosa, non per cose impegnate, perché quell'altro, diciamo, protagonista aveva fatto anche cose un po' più serie, ha fatto un sacco di televisione e ha fatto un sacco di cose discutibili, tra cui Animali Fantastici, credo una comparsata, perché non me la ricordo onestamente, però. È un bel po' di telenovelas. E detto questo, il cast è completamente sconosciuto ed è incredibile. È veramente assurdo, poi magari ne parliamo un po' meglio. Quindi vabbè, siamo nel Brasile della dittatura, diciamo sotto dittatura, e il nostro protagonista viene descritto mentre guida in macchina e si ferma a questa stazione di benzina in cui c'è un cadavere non freschissimo, e questo è l'incipit del film. E di fatto l'incipit del film, come diceva anche una della produzione, è un film a parte, perché viene fermato la polizia, c'è una scena abbastanza carina, una scena in cui ti spiega già qual è il clima politico del Brasile, e finisce subito, cioè nel senso si apre e si chiude, non c'entra niente col film, serve solo a darti una descrizione del film. Questo protagonista sta scappando, non sappiamo da cosa, lo sapremo più o meno a metà film, e si dirige verso, come si chiama, Recife, vabbè, una città da tutta altra parte della sua città di partenza, dove cerca di incontrare il suo figlio, si riunisce con suo figlio Fernando, che vive con i nonni. E, allora, io non direi quasi nient'altro, tranne che, diciamo, lui scappa da qualcosa, e questo lo sai subito, non sai da cosa, e nel film sono coinvolti diversi personaggi, non tantissimi, diversi gruppi di personaggi, non tantissimi, quindi abbiamo lui, la casa in cui viene ospitato, che è una casa gestita da una ex anarchica, comunista, qualcosa del genere, Donna Sebastiana, che ospita altri rifugiati, quindi abbiamo questo ambiente. Dopodiché abbiamo l'ambiente del nonno, che quindi che sarebbe il padre di sua moglie, che si ritrova, diciamo, a proteggere lui o a gestire anche lui in un momento in cui, diciamo, sua figlia è morta, perché la moglie del protagonista è morta, lo sappiamo subito praticamente. E dopodiché abbiamo un altro ambiente, che è quello della polizia corrotta, e poi qualcos'altro, diciamo, in altre, non so come dire, linee temporali, ecco, piccolo spoiler. È un film complicato, e secondo me lo rende complicato il fatto che dura 40 minuti di troppo. Poi magari ne parliamo meglio. Devo dire altro sulla trama? Non so. Ma senza spoiler, cioè, basta così, direi. Sì. Esatto. E, allora, vabbè, intanto abbiamo già detto, è candidato a un sacco di premi Oscar, sia per probabilmente l'interpretazione degli attori, sia per le vicende narrate, perché comunque narra un periodo difficile in un modo un po' vintage, non saprei come altro dirlo. Vuoi dire tu qualcosa e poi dopo io insulto la durata del film? Io, quando prima abbiamo parlato di casting, devo dire questa cosa: guardate questo film anche solamente per Donna Sebastiana, che è una delle vecchiette più belle che io abbia mai visto. Cioè, c'ha una voce da, non so, 40 pacchetti di sigarette al giorno, sì. Incredibile. Ma anche come dice le cose, perché non recita. Cioè, questa qui ha iniziato a recitare a 72 anni, quindi non è che dici, ah, questa qui ha recitato. Cioè, non è come vedere la... oddio, com'è che si chiamava? Diana... vabbè, non mi ricordo. Diana Rigg, Riggs. Cioè, non è come vedere un'attrice che recita da 42 anni e è super... cioè, è proprio... è la vecchietta... cioè, non lo so, è proprio di... questa la conosco. Cioè, è una vecchietta di un... una città, di un borgo dove sono stato, è fantastica. Cioè, per me ruba il film, quelle tre scene in cui c'è lei, sono stato folgorato da questa vecchietta. Però beh, più seriamente, a me è piaciuto il film. Parte super lento, ma comunque già dai primi minuti lo fa per farti entrare comunque in un ritmo diverso. Cioè, secondo me forza un po' troppo la mano, ma è perché è un po' come C'era una volta nel West. Cioè, lo fa per farti proprio fare una specie di calm down, no? Cioè, di calmarti, tornare al suo ritmo. che poi rimane. Sì, ti introduce anche l'ambientazione, perché comunque perde un sacco di tempo a parlarti dell'ambiente. Esatto, cioè la scena iniziale che possiamo un po' spoilerare, secondo me, è in realtà emblematica di tutto il film, perché è proprio. Serve proprio a descrivere quella specie di dissociazione mentale sotto la dittatura di questo cadavere che sta lì in maniera surreale, nessuno se ne frega un cazzo, arriva la polizia se ne sbatte il cazzo del cadavere. Sì, no, proprio, rompe, non dicevo rompe niente. Il cazzo a lui, rompe le scatole a lui, e lui è molto bravo, ma sono bravi quasi tutti, diciamo, gli attori in questo film. Ed è ben girato, sembra proprio un film dell'epoca che rappresenta, un film anni 70 stile Steve Spielberg. Cioè, io ho proprio pensato, guardando la scena all'inizio con la macchina, è come se sto guardando, non so, un The Duel o un film di Scorsese degli anni 70. Sì, cioè, un film vecchio, come un film come vecchio, dice. Sì. E anche come ritmo, purtroppo, sono d'accordo con te che sto film, cioè io faccio il paragone con Una battaglia dopo l'altra, che può non piacere a me, cioè io ho i miei problemi con quel film, ma scorre 30 volte meglio di questo. E fa ridere, perché comunque... E fa anche... anche questo film c'ha dei momenti che mi hanno fatto molto ridere, c'ha dei momenti surreali. No, io fa ridere il fatto che comunque Una battaglia dopo l'altra è lentissimo e nonostante... Ah sì, esatto. Sì, no, però scorre meglio. Questo è molto più... Cioè, per chi vuole vederlo, secondo me, aspettatevi un film comunque bello, ben fatto, ben girato, ben recitato. Anche un film... come dire, che non è schiavo, cioè non è un semplice noir, un semplice neo-noir. Anche il titolo secondo me è un po' fuorviante, perché non è un film... Sì, infatti io non ho ben capito il titolo. Io ho una mia teoria, cioè ho una mia interpretazione. Però, boh, cioè, in sostanza mi è piaciuto, cioè è molto, molto bellino. C'ha un sacco di cose non dette, c'è un sacco di cose che sono lasciate lì per te da interpretare, da incastrare con la tua conoscenza del Brasile, se sei brasiliano. Per quello avrei avuto piacere avere Andrea a cui chiedere cose, o insomma di quegli anni dell'Africa, dell'Europa, insomma. Vabbè. Il carino comunque, non mi è dispiaciuto. Sì, io ho un grosso problema, perché allora, l'ho cominciato in realtà con Angela e dopo 20 minuti, credo, ho detto vabbè, lo finiamo domani, pensando fosse a metà, ed erano passati 20 minuti, questo film dura 2 ore e 40, praticamente. No, quanto dura? 2 ore... Sì, 2 ore e 40. E poi in realtà dopo ho guardato io da solo l'altra metà, e questo già la dice lunga, no, da metà in poi o mi sono abituato io al ritmo, oppure il ritmo diventa normale, perché effettivamente sei più in parte, sei più nella trama. È raccontato effettivamente come un film vecchio, e sia come recitazione proprio, e sia come fotografia. Poi magari se vuoi io tipo tengo due ore a parlare di... No, vabbè, facciamola breve. Il film è particolare perché, vabbè, a parte il fatto che il direttore della fotografia è una direttrice della fotografia, in realtà è una russa di nome Evgenia Alexandrova, qualcosa del genere, Eugenia sarebbe, vabbè, Eugenia Alexandrova, mi perdonerà, che ha deciso di fare tutto questo film praticamente con una, non dico una camera, ma sì, cioè era lei l'operatrice di se stesso. E ha deciso di usare questa palette colori e questo tipo di lenti un po' vintage per dargli proprio il look degli anni 70. E ha voluto usare anche molte reference di fotografie dell'epoca. quindi fotografie a colori dell'epoca che lei ha ripreso e le ha controllate per vedere, verificare effettivamente che il suo LUT, il suo, quindi la sua color correction, la sua, quello che è, fosse simile a queste foto. Tra l'altro si è anche presa, credo, perché non erano abbastanza rosse, qualcosa del genere, però fatto sta che il look che gli ha dato è quasi giallo-arancio, cioè all'inizio sembra quasi un film di Cosoli, come cazzo si chiama, di... mi ricordo più come si chiama, quello che Wes Anderson, come tipo di colori, nel senso che alla fine all'inizio lo guardi e cioè è giallo, verde e poco altro, e poi ha una cosa, una sorta di seppia intermedia. In realtà non è così, è proprio vecchio e ci sta da Dio. E infatti mi sono innamorato della fotografia di questo film. E anche il tipo di inquadrature, anche il tipo di insomma di come vengono gestiti i dialoghi e le scene, però è veramente lungo. Cioè, io ho capito quello che vuol dire, ma è veramente, veramente, veramente, veramente, veramente, veramente lungo. Cos'altro volevo aggiungere? Mi ricordo più. No, e niente, comunque complimenti perché lei voleva effettivamente dargli quel look lì, ha studiato per dare quel look lì ed è riuscita proprio a rendere un film che se tu lo prendi, lo paragoni, come dicevi tu, a un film degli anni Ottanta, alla fine viene fuori che è la stessa roba. E non è fake, ma sembra proprio realmente girato 40 anni fa. E basta, non so se ho altro da aggiungere sulla fotografia. Sì, anche come stranezza, cioè anche come quello che dicevo prima, no? È anche strano come un film degli anni 70, non è ben definito, non è, cioè alcune cose che fa non si capisce bene perché le fa. Cioè, o meglio, si capiscono poi a seguire, adesso non so se spoilerare, però c'è una scena dove io ho detto, ma ho sbagliato a scaricare, cioè c'è un altro film qui dentro, nel senso che è cambiato completamente, poi dopo si capisce a cosa fa riferimento. Sì. Alcune volte tu Però... guardi e dici, ah, ecco perché si chiama agente segreto, poi però non è vero. Cioè, esatto, sì. quando tira fuori i bigliettini dici, ah, cazzo, o chiama, telefona e dici, ah, ma forse allora è una... non è vero. No, secondo me Perché la non sai cosa sta. chiave è... Esatto, la chiave è nel finale, secondo me. Cioè, la chiave è lo squalo di Spielberg, senza dire altro. La gamba. La gamba. E, boh, è molto bello anche perché è riuscito, secondo me, a catturare la diversità di culture di quello che c'era in Brasile, che c'è tuttora in Brasile, quindi sia etnie, sia colori della pelle, sia persone, i rifugiati vengono tutti da posti diversi e sono molto diversi, sia come accento, sia fisicamente, sia come modi di parlare. Li ha messi in un contesto politico, tra virgolette, e quindi c'è la storia della madre, che è probabilmente una desaparecido, una cosa del genere, insomma, che è scomparsa, non è presente neanche negli anagrafi, e quindi ci sono un bel po' di storie che lui però cita e basta, non ci mette nient'altro, quindi è molto bella, secondo me, ci puoi vedere molte, molte diverse trame, molte diverse storie. C'è la storia del nazista, che non è un nazista, ma in realtà è un rifugiato perché cos'è, ebreo lui, quindi è un rifugiato della Seconda Guerra Mondiale, è sopravvissuto all'Olocausto. E sono un sacco di storie, è molto bello da quel punto di vista. È molto molto lungo, quindi bisogna armarsi un po' di pazienza. Paolo, Ho scordato qualcosa? No. pure questo film, Andrea, i nazisti, non si risparmia. Ma non c'erano quei nazisti, ci sono solo loro che dicono: è un nazista, è un nazista. Mamma mia. Boh, E... non so se vogliamo finire qui la parte no spoiler e fare una parte spoilerosa, Sì, però... prima voglio dirti una cosa: non abbiamo ancora citato una roba che secondo gli autori del film è importantissima, ma che io non ho subito per niente, che è il fatto che la maggior parte dei personaggi viva con la paura del regime. e quindi c'è uno stato di ansia perenne del fatto che loro comunque sono tutti rifugiati, ricercati e stanno per morire. Certo. O no. Certo, sì. Io non l'ho sentita per niente sta roba. Però. Io sì. Ah, ok. Cioè, vabbè, iniziamo con gli spoiler, fanculo. Vai, spoiler. Cioè, la scena quando loro stanno lì e lui dice il suo nome. Sì. Io l'ho sentita, cioè lì proprio la reazione dei personaggi non è una reazione normale a una persona che ti dice una cosa del genere. Cioè, come se loro sapessero cosa voleva dire il fatto che lui gli stava dicendo questa cosa. È come se loro sapessero che un po', vabbè, sì, lo dicono, ti stai fidando, io non sono coraggioso come te, ma è proprio... c'è proprio il sentore di... io sono un condannato a morte, cioè io sto... lì, sì, lì per... e lo sono tutti. E lo sono tutti lì dentro, cioè delle cose che io non avevo colto all'inizio, tipo che quei due dall'Africa sono anche loro dei rifugiati di... non so, tipo una guerra civile in Angola, non ho capito. Cioè, loro non è che vengono presentati come... ah, questi qui scappano da guerra civile. Dice, ah no, questi vengono da... sì, è una coppia da... che... vengono coppia da Angola. Forse si vengono là, no. Cioè, ogni cosa è coperta da uno strato di ironia, nel caso della gamba, no? Ma comunque... sotterfugio, propaganda... No, ma non si parla dei morti, dei 600 morti politici durante il carnevale. Si parla della gamba omofoba. Cioè, è una storia attualissima, penso per il Brasile, ma anche per noi. Cioè anche per noi. Anche la storia della stazione di polizia è proprio quello. Ma porca puttana, cioè, no. Per me... Poi anche la storia stessa del film, lo squalo che si mangia la gamba, cioè... Sì, sì. È surreale apposta e l'ho sentita proprio questo umorismo, questa ironia molto dark di persone che vivono sotto questo terrore, un po' come anche nell'Unione Sovietica c'è un umorismo simile. Dobbiamo vedere dei film? Dei no, film rompi basta. Coglioni dell'Unione Sovietica, fra qualche anno magari, quando ecco, esatto, così, tra un paio di mesi almeno. Un paio di mesi. No, per me il film si salva anche per quello. Cioè, a parte sì la tensione, perché comunque è come dicevi tu, la seconda parte magari il ritmo è simile, ma la tensione aumenta perché sai che si sta stringendo. Sì, e quindi scorre un po' meglio. Per me è interessantissimo che alla fine lui muore fuori camera. Cioè, muore... Perché io guardandolo pensavo, cazzo che merda hanno, questo flash forward nel futuro hanno smerdato il senso di tensione. In realtà no, perché alla fine, cioè, non lo so, comunque sei lì con lui in quel momento, perché anche se dici, vabbè, nel 2025 sarà già morto, no, questo qui. Cioè, in ogni caso, però dici, magari ce la fa, magari riesce a vivere col figlio un po' insieme. Cioè, l'obiettivo mi piace che sia diventato non chissà se questo è ancora vivo alla fine del film, perché alla fine del film è sicuramente morto. Però sì, anzi, lo liquida tipo... velocissimo. Cioè, fa proprio vedere in un attimo lo screenshot e boh, morto. Fine. Sì, esatto, perché il punto non è quello. Cioè, alla fine il punto del film diventa il figlio, che, vabbè, coincidentalmente è identico, mi ha fatto molto ridere, però... Cioè, diventa il ricordo che ha il figlio del padre. Mi è piaciuto un sacco come stacco, come cosa per renderlo ancora più fuori dagli schemi, diciamo. Probabilmente sì, ti dà proprio l'idea che è stato dimenticato anche quello che è successo. Esatto, cioè la madre, chi era la nonna di questo qua, perché era importante il nome, cioè, non so, c'è un sacco di roba secondo me che forse andrebbe chiesta ad una persona brasiliana che magari può cogliere di più, però qualcosa arriva. Sì, e poi ci sono un botto di spunti, come dicevo, perché, vabbè, a parte tutta la metafora, lo squalo, la gamba, eccetera, ci sono un sacco di di spunti di personaggi, anche tipo la tizia, la dentista. Chi cazzo è? Perché ricerca? La dentista? Cioè, la dentista? Quella col, la dottoressa, quella col figlio, no? La dentista, sì. Nella casa dei rifugiati. Ah, sì! Anche lei, in teoria, vive con la paura della morte, dice due battute che puoi intuire cosa può essere successo, ma non dice nient'altro. C'è un sacco di cenni, di spunti, di cose che danno contesto e che in realtà cioè lo scopo è proprio quello, è dire che la società, cioè non è un caso isolato, ma che è così che funziona. No, è bello, cioè è molto sapio, non necessariamente molto troppo, quindi No, infatti stavo per dire, abbiamo visto film di Lanthimos che sono veramente una mattonata sui coi, cioè nel senso sono proprio... No, esatto, non necessariamente troppo. Io avrei tagliato quelle due o tre scene, in alcune interviste loro hanno detto che lo sanno, che quelle scene sono una rottura di coglioni, però reputavano fosse importante per dare il contesto, quindi chi sono io per dirgli se è un coglione, però insomma l'ho subito un po' all'inizio del film. Secondo me alcune scene sono abbastanza inutili, però contenti loro. Sì, loro hanno proprio detto così, lo sappiamo, anche le scene carnevale, eccetera, volevamo mettere in un contesto, probabilmente si poteva tagliare. Anzi, addirittura in un'intervista a Eugenia lì, ha detto che lei è contenta di averle lasciate, quindi proprio ci tenevano proprio. E vabbè, cosa gli vuoi dire a questo punto? Molto divertente comunque la scena dell'inseguimento, cioè sia la scena all'inizio di che loro approcciano, diciamo, il tizio che sta inseguendo il protagonista, no? L'assassino, il mercenario, sia all'inizio che uccide due, cioè spara a due poliziotti così a caso, sia proprio l'inseguimento mi ha fatto molto ridere, cioè... Tra l'altro, tutto l'inseguimento e tutto il fatto che sia una mezza coincidenza, nel senso che alla fine il poliziotto, il capo del poliziotto è amico del tizio, lui l'ha conosciuto, eccetera, eccetera, è molto film vecchio. Sì, Cioè, è molto molto... vintage. È vero. È molto carina come cosa. No, boh, io dico, cioè, se volete guardare, se volete scoprire la vecchietta più simpatica degli ultimi 20 anni dei film, secondo me, a me sta simpaticissimo, E guardatelo poi. sì, tra l'altro questo film, essendo un film, tra virgolette, sapio, ma non essendo un film di punta, tipo appunto Una battaglia dopo l'altra, ste cacate qua, lo trovate anche in un sacco di cinema più piccolini, magari carini, magari vintage, magari storici, magari qualcosa del genere, con dei prezzi umani, e quindi se avete la possibilità e Ah, c'è sì. l'opportunità, andateci perché... Non essendo appunto uno dei grossi film, ecco, preparatevi che non è cortissimo, però non essendo uno dei grossi film, probabilmente lo trovate in una bella sala, tanto non ha bisogno di chissà che tecnologia, in una bella sala e poco prezzo e lo straconsiglio. Vero. Vero, magari col fatto che ci stanno gli Oscar lo rimettono se l'hanno tolto. Dovrebbero averlo tolto adesso, però. Ma a Sasso Marconi era sabato scorso, era al cinema. Ah sì? C'è ancora? Wow. Costava 5 euro tra la... no, 3, 4 euro. Per quello dico, nel caso approfittatene, perché non è così complesso da capire come un film di Lanthimos che sembra una masturbazione del regista e allo stesso tempo è abbastanza... no, è godibile. Se portatevi qualcosa da mangiare. Ci sta, Un non vede troppo caffettino. prima. Esatto. Vabbè, e Andrea non si è presentato, quindi io lo maledirei Grazie e basta. Andrea, sempre abbagliante e che dire. Non so se prenderemo una pausa la prossima settimana perché siamo un po' a corto, almeno, non so, a questa puntata io sono arrivato un po' lento, però Sì, adesso ne vediamo, magari. parliamo. Cioè, io ho tempo questo weekend di spararmene due, però vediamo se riusciamo, se no pausa di una settimana. Va bene, dai, grazie per averci seguito, grazie Jacopo per la tua sapietà, per avermi proposto un fensapio come al solito. Io smetto, giuro. Noi ci vediamo settimana prossima, forse, e forse anche con Andrea. Adesso gli diamo un altro film di nazisti in cui c'è scritto nazisti, vediamo se non lo guarda. Cavolo, speriamo. Vabbè, alla settimana prossima. Ciao ciao. Ciao.